Terzo anello, ad alta voce, L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Dalla mia piroga si scorgeva sempre a terra il bagliore del grande falò dell'accampamento, che ardeva luminoso fra gli alberi fiancheggianti la riva. Qualcuno stava cantando un'antica tetra cadenzata nenea marinaresca, con una pausa e un tremolo al termine di ogni verso, che sembrava non dovesse finire che con la pazienza del cantore. L'avevo sentita più di una volta lungo il viaggio e ne ricordavo queste parole: di quella ciurma, uno solo vivente, che aveva imbarcato con 75. Finalmente giunse la brezza. La goletta si mise di traverso e mi si fece più prossima nell'oscurità. Io sentii il cavo allentarsi ancor più e con un rude sforzo tagliai le ultime fibre. La brezza aveva poca presa sulla piroga e io fui quasi istantaneamente succhiato contro la prua della Hispaniola. Nel medesimo istante la goletta cominciò a girarsi, piano, seguendo la corrente. Mi dimenai come un demonio, perché da un momento all'altro mi aspettavo di essere ingoiato. E dato che mi accorsi di non essere in grado di allontanare direttamente la piroga, mi spinsi a remi diritto sulla poppa. Alla fine riuscii a districarmi dal mio pericoloso vicino e proprio mentre stavo dando l'ultima spinta, le mie mani si incontrarono in una funicella che pendeva fuori bordo dal cassero di poppa. L'afferrai all'istante, tirai a forza di braccia la corda e quando giudicai di essere abbastanza vicino, mi rizzai con mio grande pericolo quasi a metà della mia altezza. E così potei avere libera la visuale del soffitto e di uno spicchio dell'interno della cabina. Un'occhiata bastò, perché non fu che un'occhiata che mi azzardai a dare da quell'instabile guscio. Vidi Hans e il suo compagno stretti insieme in una lotta mortale, ognuno con la mano alla gola dell'avversario. Mi calai di nuovo sul banco, appena in tempo, perché ero pressoché fuori bordo. La interminabile nenia a terra era giunta al termine finalmente, e tutta la ridotta brigata intorno al falò dell'accampamento aveva intonato il coro che così spesso avevo udito. 15 uomini, 15 uomini sulla cassa del morto. Yo, è una bottiglia di rum. Bere il demonio, bere il demonio, avevan fatto il resto. Io, è una bottiglia di rum. Stavo per l'appunto pensando quanto fossero affaccendati il bere e il demonio proprio in quel momento nella cabina dell'Hispaniola, quando fui sorpreso da un improvviso rullio della piroga. Nello stesso istante essa girò bruscamente e parve cambiar rotta. La sua velocità intanto era stranamente aumentata. Diedi un'occhiata al di sopra della spalla e il cuore mi venne meno. Là, proprio dietro di me, si trovava ora il chiarore del falò del campo. La corrente aveva girato ad angolo retto, spazzando via con sé l'alta goletta e la minuscola piroga saltellante, e accelerando sempre, sempre gorgogliando più forte, sempre brontolando più alto, ci spingeva attraverso lo stretto, verso il mare aperto. All'improvviso la goletta che avevo di fronte virò con violenza, girando forse di una ventina di gradi, e quasi nello stesso istante un grido e poi un altro si susseguirono a bordo. Sentii uno scalpiccio per la scala del corridoio e capii che i due ubriaconi erano stati alla fine interrotti nella loro baruffa e si erano resi conto del disastro. Mi coricai supino sul fondo di quella misera barchetta e raccomandai devotamente l'anima al creatore. Ero certo che all'uscita dallo stretto saremmo stati in balia dei flutti, dove tutti i miei guai avrebbero avuto rapida fine, e quantunque avessi forse il coraggio di affrontare la morte, non potevo stare a guardare il mio destino mentre si compiva. Devo essere rimasto disteso in quello stato per ore, continuamente sballottato in qua e in là dai marosi e di tanto in tanto ammollato da volate di spruzzi senza mai cessare di aspettare la morte al prossimo tuffo. A poco la stanchezza mi vinse. Un torpore, uno stato di incoscienza mi avvolgeva la mente, anche in mezzo ai miei terrori, finché alla fine giunse il sonno e nella mia piroga sbattuta dalle onde sognai la mia casa e il vecchio Admiral Benbow. Era giorno fatto quando mi destai e mi trovai sbalzato all'estremità sud-ovest dell'isola del tesoro. Il sole era levato, ma mi era ancora nascosto dalla gran mole del cannocchiale, che da questo lato scendeva quasi fino al mare, in formidabili scogliere. La punta Issa la Bolina e il monte dell'albero di Mezzana erano di fronte a me, il monte nudo e cupo, la punta irta di picchi alti da 40 a 50 piedi e urlati di grandi ammassi di rocce franate. Ero a largo appena un quarto di miglio e il mio pensiero fu di remare verso terra e approdare. Progetto presto abbandonato. Tra gli scogli la risacca rompeva muggendo, fragorosi rimbombi, pesanti folate di spuma che salivano e ricadevano, si susseguivano a ogni secondo. E io mi vidi, se avessi osato avventurarmi più vicino, o sfracellato contro quella selvaggia riva, o condannato a logorar vanamente le mie forze per scalar quegli scogli a strapiombo. Frattanto avevo una prospettiva migliore, almeno così supponevo, davanti. A nord di Capo Issa la Bolina, la costa corre per un buon tratto lasciando scoperta, a bassa marea, una lunga striscia di sabbia gialla. Più oltre, ancora a nord, sorge un altro capo dei boschi, era segnato sulla carta, coperto di alti pini verdi che discendono fino al mare. Rammentavo quel che Silver aveva detto della corrente che va verso nord, lungo tutta la costa occidentale dell'isola del tesoro, e constatando, dalla mia posizione, che ero già sotto la sua azione, preferii lasciarmi dietro capo issa la bolina e riservare le mie forze per un tentativo di approdo al più accogliente capo dei boschi. Vi era un grande e liscio moto ondoso sul mare. Soffiando vento stabile e moderato da sud, non vi era contrasto tra vento e corrente, e i marosi si alzavano e ricadevano senza frangersi. Dopo un po' cominciai a farmi assai ardito e mi misi seduto per provare la mia abilità nel pagaiare. Ma un benché minimo cambiamento nella ripartizione del peso può produrre violenti cambiamenti nel comportamento di una piroga. E io mi ero appena mosso che la piroga, abbandonando immediatamente quella sua gentile andatura danzante, filò dritta giù per una così rapida china d'acqua che mi dette le vertigini e affondò il naso in un nuvolo di spuma nel fianco dell'ondata successiva. Ero mezzo fradicio e atterrito e mi lasciai ricadere istantaneamente nella mia primitiva posizione, mentre la piroga sembrava ritrovasse il suo equilibrio e riprese a guidarmi tra i marosi con la delicatezza di prima. Era evidente che non intendeva essere contrastata, ma a queste condizioni, dato che non avevo modo di influenzare la sua rotta, che speranza potevo avere di toccar terra? Ecco, dissi tra me, è evidente che devo starmene disteso dove sono e non spostare l'equilibrio, ma è altrettanto evidente che posso appoggiare la pagaia su un lato e di quando in quando nei punti piani dare un colpo o due di remo verso terra. Detto fatto, mi tenni disteso, puntato sui gomiti nella più faticosa posizione e ogni tanto davo uno o due deboli colpi di remo per voltarle la prua verso terra. Era una lenta e logorante fatica, però guadagnavo manifestamente terreno e quando fummo vicino al capo dei boschi, quantunque mi accorgessi che lo avrei sicuramente mancato, avevo già fatto qualche centinaio di metri verso est. Ero davvero molto vicino, potevo vedere le fresche cime verdi degli alberi dondolarsi insieme nella brezza e mi sentii sicuro di approdare al prossimo promontorio. Ora cominciavo a essere torturato dalla sete. La vampa del sole dall'alto, quelle miriadi di riflessi sulle onde, l'acqua di mare che ricadeva ed evaporava su di me incrostando di sale perfino le mie labbra, cooperavano ad asciugarmi la gola e a farmi dolere il cervello. La vista degli alberi, quasi a portata di mano, mi faceva smaniare di desiderio, ma la corrente mi ebbe presto trascinato oltre quel punto, e quando mi si aprì davanti la nuova distesa di mare, fui colpito da una apparizione che mutò tutto il corso dei miei pensieri. Proprio di fronte a me, nemmeno a un miglio di distanza, scorsi la Hispaniola alla vela. Ebbi immediata l'impressione che sarei stato catturato, ma ero talmente tormentato dalla sete che non seppi io stesso se dovessi rallegrarmi o dolermi di questa situazione. E molto prima che fossi giunto a una conclusione, la sorpresa aveva preso completo possesso di me e non seppi far altro che fissare, stupefatto, la nave. virgoletta. Si metteva gradatamente a veleggiare, per poi riprendere di nuovo un'altra bordata, navigando veloce, un minuto giù di lì, e poi tornare un'altra volta in panne. La cosa si ripeté parecchie volte, su e giù, qua e là, nord e sud, est e ovest. La Hispaniola navigava a pezzi e bocconi, a strattoni e scosse, e ogni ripresa terminava come aveva cominciato, con un pigro sbattere di vele. Mi divenne chiaro che nessuno la governava. E se così era, dove si trovavano i marinai? O erano ubriachi fradici, o l'avevano abbandonata, pensai, e forse se avessero potuto abbordarlo sarei riuscito a restituire il veliero al suo capitano. La corrente portava piroga e goletta in direzione sud a eguale andatura, e quanto alla navigazione di quest'ultima era così capricciosa e intermittente e tardava tanto a virare che certo non guadagnava nulla seppur non perdeva. Se soltanto avessi osato rimettermi a sedere e pagaiare, ero sicuro di poterla raggiungere. Il progetto aveva un che d'avventura che mi tentava. E il pensiero della cassa d'acqua accanto al cassero di prua raddoppiava il mio rinascente coraggio. Da qualche momento era venuta facendo la peggior cosa che potesse fare per me, starsene ferma. Aveva la prua quasi a sud, ma naturalmente mutava di continuo direzione. Ogni volta che andava al vento le sue vele si gonfiavano parzialmente e di nuovo in un attimo la portavano controvento. Ho detto che questo era il peggio che potesse fare per me, perché, abbandonata come pareva in queste condizioni, con le vele che sbattevano da parer cannonate, le carrucole che ruzzolavano e percotevano per il ponte, essa continuava ad allontanarsi da me, non solo con la velocità della corrente, ma con quella della sua deriva, che era naturalmente grande. Ma ora, alla fine, ebbi un colpo di fortuna. Per qualche secondo la brezza cadde, quasi del tutto, e la corrente a poco girò la Hispaniola di bordo, così che essa fece pian piano una virata intorno al proprio asse e finalmente mi presentò la poppa con la finestra della cabina tuttora spalancata e la lampada sulla tavola tuttora accesa di giorno pieno. La vela di maestra pendeva floscia come una bandiera, salvo per la corrente. La goletta era immobile. Non ero distante un centinaio di yarde che il vento riprese all'improvviso. La Hispaniola gonfiò le vele, mura a babordo, e di nuovo filò via, inclinandosi e sfiorando il mare come una rondine. Il mio primo impulso fu di disperazione, ma il secondo fu di gioia. La goletta girò intorno a se stessa fino a mostrarmi il fianco, poi ancora fino a coprire la metà e poi i due terzi, e poi i tre quarti della distanza che la separava da me. Potevo vedere le onde ribollir bianche sotto la prua. Immensamente alta, mi parve, dalla mia infima posizione nella piroga. E allora, di colpo, cominciai a capire. Avevo scarso tempo per riflettere, scarso tempo per agire e salvarmi. Mi trovavo sulla sommità di un'ondata quando la goletta mi raggiunse abbassandosi verso la successiva. Avevo il bompresso sul capo. Mi rizzai di scatto e mi dette lo slancio, spingendo con il piede la piroga sott'acqua. Con una mano afferrai il bastone del fiocco mentre il mio piede si ficcava fra lo straglio e il braccio, e me ne stavo ancora lì aggrappato, ansante, quando un colpo sordo mi avvertì che la goletta aveva caricato e fracassato la piroga e che ero rimasto senza possibilità di ritirata sulla Hispaniola. Thank you. fatica mi ero trovato un posto sul bompresso che il fiocco volante sbatté gonfio di vento sull'altra murata con un colpo che parve di fucile. La goletta tremò in tutta l'ossatura sotto la raffica, ma un minuto dopo, continuando le altre vele a portare, il fiocco si era di nuovo afflosciato e pendeva inerte. Mi trovavo sotto vento al cassero di prua e la vela dell'albero di maestra che tuttora portava mi celava una parte della coperta a poppa. Non si vedeva un'anima. La plancia, non più ramazzata dopo l'ammutinamento, portava l'impronta di molte pedate e una bottiglia vuota rotta al collo rotolava qua e là tra gli ombrinali come se fosse una cosa viva. A un tratto la ispagnola si trovò il vento in poppa. I fiocchi dietro di me schioccarono rumorosi, la barra del timone sbatté, la nave intera ebbe un fremito. Nello stesso momento il boma della randa girò entro bordo con la scotta che gemeva nelle carucole e mi rivelò la coperta a poppa. Là erano i due guardiani, quello dalla papalina rossa disteso sulla schiena, rigido come un bastone, con le braccia spalancate a crocifisso, la dentatura appariscente tra le labbra semiaperte. Israel Hans sedeva appoggiato al parapetto con la testa a ciondoloni, le mani aperte distese davanti a sé sul ponte, il viso sotto la bronzatura, bianco come una candela di sego. A ogni balzo della goletta quel corpo dalla papalina rossa scivolava da una parte all'altra, ma orrendo spettacolo né il suo atteggiamento né quella sua rigida smorfia che gli scopriva i denti erano minimamente alterati da simile trattamento brutale. A ogni balzo anche Hans sembrava si ripiegasse su se stesso e si ricomponesse sul ponte. I piedi gli scivolavano sempre più lontani e tutto il corpo si inclinava verso poppa, così che la sua faccia a poco mi rimase nascosta e alla fine non potei vederne che un orecchio e l'apostrofo consunto di un baffo. In pari tempo mi vennero sott'occhio intorno a tutti e due delle macchie di sangue annerito sulla plancia e cominciai ad arguirne che nel furore dell'ubriachezza si fossero reciprocamente massacrati. Mentre stavo così guardando e congetturando, in un momento di calma in cui la goletta era ferma, Israel Hans si rivoltò parzialmente su se stesso e con un debole gemito si riportò di nuovo nella posizione in cui mi era apparso prima. Quel gemito, espressione di una sofferenza e di una pena mortale, e il modo in cui pendeva aperta quella sua mascella mi andarono diritti al cuore. Ma quando mi risovvenni del discorso sorpreso nella botte delle mele, ogni compassione svanì. Avanzai fino a raggiungere l'albero maestro. «Venite a bordo, signore Hans!» disse ironicamente. Egli girò intorno i suoi occhi, pesantemente, ma era troppo mal ridotto per esprimere sorpresa. Tutto quanto poté fare fu emettere una parola. «Brandy!» Mi venne in mente che non c'era tempo da perdere e scansando la vela di randa che di nuovo ciondolava attraverso il ponte, scivolai via e giù per la scala del cassero in cabina. Era una scena di confusione, difficilmente immaginabile. Tutti i cassetti chiusi a chiave erano stati fatti saltare per cercare la carta. Il pavimento era incrostato di fango, essendocisi quegli scellerati seduti per bere o tener consiglio dopo aver guardato per la palude che circondava il loro campo. Le paratie, tutte dipinte di puro bianco e decorate intorno di dorature, portavano impronte di mani sporche. Dozzine di bottiglie vuote tintinnavano incontrandosi negli angoli con il rollare della nave. Uno dei libri di medicina del dottore giaceva aperto sul tavolo con metà delle pagine strappate, probabilmente per accendere la pipa. Su tutto ciò la lucerna spandeva tuttora un suo chiarore fumoso e fosco come terra d'ombra. Entrai nella cantina. Le botti erano scomparse e delle bottiglie una quantità stupefacente era stata bevuta e buttata via. Certo, da che si era prodotto l'ammutinamento, nessuno di loro doveva essere mai stato in sé. Rovistando qua e là, trovai una bottiglia con un fondo di brandy per Hans, e per me racimolai qualche biscotto, un po' di frutta in conserva, un grosso grappolo di zibibbo e un pezzo di formaggio. Tornato con questa roba in coperta, posai la mia provvista dietro la testa del timone e tenendomi a debita distanza dal timoniere, avanzai fino alla cassa dell'acqua e ne feci una buona golata. E poi, e soltanto allora, detti a Hans il brandy. Piero Baldini ha letto L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Riduzione Giovanni Piccioni. Regia Adelchi Battista. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it